quelle che fa la voce bassa, a cantare forte sta cosa. Solo con la voce io qua. Aspetta, mi concentro, va meglio? Sì, sì, sì, meglio, molto meglio. Ehi, alle 5 di mattina, oggi no, oggi mi sono stancato parecchio, dalla sera in radio, dal pomeriggio. Infatti oggi credo che cederò il passo, dai. No, vabbè, io sono quella l'altra che sono attuale, quindi penso che per il collega sono molto stretta, perché la mattina poi la scuola con il terrestre, poi la medicina. Niente da fare, dai, 9 più 5, ma non la sento di radio, sento qualche parola, capisco, dai. Poi c'è Antonello sparato da una parte col volume, siamo sempre lì al fine. Se avessimo la modulazione tutti pari sarebbe sempre meglio. Pari livello, tutti microfono normale, però niente da fare. E anche stasera poi ce ne è parlato. Oggi ragione ci scappa la vista. Lui, cosa ti stavo dicendo Marco? Io l'ho capita, ti hanno detto che è in piedi dalle 8 di mattina e che oggi fa la brava e va a letto presto. Io te l'ho detto, c'ho il volume ai minimi termini, se no qua rimbomba, non è bomba un bel, capito già. Dai, vi lascio, devo fare anche qualcosa, dai, Giovanni, già, forse accendo dopo, se riesco. C'è Antonello, Giovanna, Gianni, Fabio, chi altri c'era? Non mi ricordo. Comunque, vi saluto tutti, dai. Ci sentiamo domani o più tardi per un fugace saluto. Ciao, vai Antonello. Via, ciao Marco, ci sentiamo domani. Intanto io so di che rimane ascolto stanotte, che fai in maniaco sessuale. Andrà bene, avanti Gianni, fai girare tu. No Antonio, stavamo a guardarsi il cielo, perché ti hai detto l'orario tu e stavamo a guardarsi il cielo, non me raccontai giusta lui. Ciao Marco, buonanotte, dai, avanti Fabio. Cazzo Marco, buonanotte, sentiamo o più tardi, anzi, o ti ascolto più tardi, oppure ci sentiamo direttamente domani, sempre su questo canale. Cosa siete, gli uomini della notte? Facciamo i manicini di notte. Vabbè, Marco già lo sappiamo che è una rotta pignara. Un pipistrello, però non datemi la colpa del coronavirus, eh. E ancora non ti abbiamo mangiato per darti quella colpa. Tanto ho fatto in laboratorio questo virus, mi hanno fatto quelli zozzoni con gli chiamandolo, oppure quegli altri dall'altra parte, i cosiddetti americani. Sì, qualche cosa di nascosto c'è sempre, qualcosa di nascosto c'è, Marco, non ho detto tutto. Proprio da io me ne vado a letto anch'io. Ciao Giovanna, ciao Alessio, ciao Fabio, mi sta prendendo la bocca anche a me, dai, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, già, ci sentiamo domani, buonanotte allora appunto anche a te, alle prossime, avanti Fabio. Sì, ciao anche a te Gianni, buon tutto, sempre in questo canale. Cappa, io sono del canale 10, faccio parte del canale 10, anche di giorno. Bene, bene, ci vediamo sul 10 allora. Ciao papà. Ciao Gianni, buonanotte. Ciao papà, avvicina la bocca al microfono, ti prego. Ciao Giovanna, sogni d'oro. Grazie, sogni d'oro anche a te. Mi prendi a lì. Giovanna c'ha l'abitudine di parlare al telefono con la voce bassa. E quindi automaticamente come da chi lo fa la stessa unica cosa. Quella che non sente razzino Giova, quindi puoi tranquillamente parlare con la voce per la più alta. Tanto già non ti bussa quello a fianco. Antonello, non è che posso urlare, no? No, urlare no, come fa Simona. Alessia! Posso urlare di giorno, di notte, ragazzi. È vero, cioè. Tu che già stai uscendo bene adesso. Avanti fa. Fabio è tutto... Intanto c'è un fischietto, Fabietto. Come è Fabio questo fruscio ogni tanto? Non lo so, guarda cosa mi cambia adesso. Fabio così, cosa ti lascia di più? No, non fischia più infatti, è strano. Perché c'ho antenna da va, faccio antenna di niente, mi trova la radione, ho fatto una cosina. Adesso invece mi entra meglio operazionale il microfono. che non c'era per aria, che non ho trovato per aria, mi sa che mi faccio fare legno, roba del genere. Guarda che anche Giovanni ma c'è una finestra lì, e la parete c'era neanche un metro dalla finestra, c'era anche me da letto, figurati. Mi sono cacciato stasera perché ieri sera c'era freddo in carrozzino, non faceva, capito, ma fino a mezzanotte. Quindi gli ho detto, lo mettiamo in carro alla letto, anche perché dall'altra parte è un casino, non uscirebbe per niente. Almeno da questa parte qua riesce a ricevere e trasmettere bene. E che non c'è il terrazzino dalla parte di Via Carlo Felice, solo se sarebbe stato un bombo a piazzare una bella antenna lì. E lì ci sarebbe bene, perché si vede molta roba da quella parte. Io in questo momento non so cosa mi ascoltare, non so cosa fare, nel senso che penso che sia allentato da quello che mi ha comando il terzo. Adesso va leggermente meglio, ma poco fa proprio tra fischi e ripetizione reverbero è un casino, te lo faceva al doppio. E devo ascoltare tante adesso facciamo tra l'altro sono curioso di avere in mano quella ragazzo che mi sta con quella parata. Capitano in testa lì un attimino più in regola, non sono accucciallato, cioè, è come gli altri. E allora le cose, non so, ci dobbiamo vedere, dobbiamo cercare di capire qual è il punto giusto, di non farla. E poi io già ce l'ho, ti fai una fotocopia e ti fai di quello che c'ho io. Anzi te ne fai due perché te ne servono due per forza, una originale da mandare, l'altra te devi farla uguale a quello che hai fatto, firmarla altrettanto e poi tenetela tu. Con la cedola del pagamento, capito? Dopodiché devi dire che anche il foglio della raccomandata con il ricevuto di ritorno che sia a posto. Sì, bisogna vedere se possiamo andare in camper, e quello è il problema. Adesso non ci pensare solo nel camper perché no, bisogna vedere come va a finire, capito? L'11 riapro, se la cosa aumenta torniamo come prima, tempo 2-3 giorni e siamo torno da capo, ne facciamo altri 2 mesi di quarantena e neanche col camper esci. No, uscire, puoi andare a fare piaggia, perché anche la consigliata, c'è anche un altro consiglio a fare. Vabbè, se vuoi andare a coso, in tappe va bene perché non si vede la prostituta, capito? Dal bolido entro, fai il lavoro che devi fare e poi la fai scendere in mezzo strada, dice vai arrangiati, poi quando tu sai cosa fai, la lasci all'incrocio ai punti, la Sant'Orso ai punti, almeno non ti vede nessuno, via per la niente. Ma lo sai, prendere il camper, pensavo, cavolo, certo che sia il camper, ma ci mangiata, chissà cosa potrò mai camper, invece che fare la camper, tutto il camper a nulla, la pari di nulla, invece nulla. E tu mettici un letto lungo, cosa ti ne affrutti? Un letto c'è, non uno, no, ce n'è uno singolo dietro, matrimoniale davanti, poi c'è la mazzata matrimoniale, sono tre mesi, capito? Non è quello il problema, perché non c'è quella magia che è quello che ci imposta, quella l'occhiaggine che è quello che ci imposta, capito? Non è così come immaginavo quella fera, però per essere una figata ci poteva fare. Sì, ne ho fatto un paio di lavori in campo, ne ho fatti a Giuseppe, li ho fatti. Abbiamo installato l'antenna, poi a un tipo di punti ho installato, se senti qualcosa. Un tubo 2001 nel fianchetto, perché c'è il buco proprio sopra il parafango, ce l'ha. Cioè vicino, non sopra, vicino alla fianca al parafango ce l'ha. L'unica cosa che va bene è il tubo 2001 come antenna, per poter utilizzare il campo. Non ce n'è alcuna cosa che c'è il tubo. L'unica che va bene, non ti da stazionare, esce perfetta, esce benissimo, ci puoi fare anche lineare. Naturalmente devi staccare il pezzo di sopra, come si chiama, il paravolta, e infilarci la mano lento, perché è un casino, se no, non ci sta per niente, giammai. Cioè, no, non c'è niente per pensare all'acqua, deve essere proprio agile. Ormai io c'avevo vari, prima c'avevo più fine, adesso ce l'avevo un pochino più grosso. Buonanotte, Simo. Ciao. E quindi, capito, il casino è quello del camper. Che non è sopra, a fianco a passa ruota. Buonanotte, amore. Ehi, buonanotte. Fai la brava, mi. Ce l'ho fatto. No, ma guarda, sì, è sul casco, sul lato c'è già la barba, sul parafango sinistro. Non so che fase sia, forse una fase piccola, ha la caccia un piccolo, però forse non lo sta nuovo, lui è uno che ha la caccia grosso. E non so perché c'è questo po' di caccia un po', non li ho messi in uno e nell'altro, però sia in uno che nell'altro c'erano tracce di caccia, no, no, tipo il fatto per il Mike, tipo un capetto con un piede che sto facendo quasi qui, insomma, tutti hanno provato a attaccarci in un parata, secondo me è una cosa migliore, perché è la penna, io ho una bella piazza sul campo del corpo, su, praticamente ho diventato in metallo, ad una parte, capito, in realtà, la cosa migliore è la base rustica di sopra, il cavo passato, per dire, dal tubo della trappa, della cucina, qualcosa del genere, e allora magari riesco bene, perché la perché parafango, comunque sia, sì, vanno, tutto quello che vuoi, però non c'è base, non gira l'antenna, non so già. No, sto dicendo, l'unico modo dove agganciare l'antenna è lì, lascia perdere sopra, quel lavoro l'ho già fatto, non ce la fai uscire, è sempre stazionaria, ha avuto problemi Giuseppe Tornado con quel camper, hai capito? Se lo chiede a cosa, mi Luca ne sa qualche cosa, anche lui ci ha lavorato con quel camper di Giuseppe, ha messo l'antenna sopra, c'era un coso in metallo, dove, come dici tu, è stato fatto un foro, è stata messa l'antenna leggermente piegata, perché sotto lo sai che tocca, come si chiama, non lo va mai bene, quindi l'unica cosa è lì dove c'è il parafango, stacchi con la pecciata e compri altri due tubo 2001 e sei tranquillo in quel camper, in quei due che c'hai, vedrai che non sbagli. E non è nessun problema, le antenne, quella che c'hai tu, quella che faccio io, sono già tarate, non devi toccarle per niente, tu appena la piazzi, se ne stai bene, non è nessun problema di stazionare, tu figurati che funziona anche attaccata alla finestra, quindi immaginati nel camper come funziona bene. È l'unica antenna che uscirà bene, gli altri non servono a niente, puoi metterci la cosa, l'antenna che facevo prima, la fusta nera, quello che è, non va nessuna bene, sempre problemi tirano gli stazionari. L'unica la tubo 2001, non c'è niente da fare. Ma guarda, io non c'ho una piastra da 40x40 sopra, c'ho una piastra 2,10 metri, 1,5 metri, praticamente non è grande la metà della macchina, capito? Sì, già ti ho capito. In quello di Giuseppe Tornado io c'era la piastra in metallo, poi addirittura attaccata alla piastra in metallo c'era la scaletta che c'è dietro per poter salire, hai capito? Però non faceva massa, non c'era niente da fare, no? È perché era acciaio, non c'era nulla da fare. Quindi a un certo punto ha preso, ha cambiato il sistema e l'ha messa davanti, ha cambiato antenna e funzionava benissimo, dato soddisfazione. Invece messa così sopra non va bene, non c'è nulla da fare. Proprio così. Avanti Giovanni. Vabbè, si potrebbe lanciare, questa è la luce, si potrebbe lanciare. Beh, il capo è una cosa, un bell'onfia Giova, installare l'antenna in un camper è come fare 13 a superare la rotta, di avere il culo, perché la maggior parte se la metti sopra non funziona, cioè funziona sì ma non ti dà guadagno, l'unica è, come si chiama, lì davanti, un'antenna di quelle lunghe, tubo 2001, come quella che abbiamo dato noi a Fabio, è l'unica che risuona bene, che non dà nessun problema, eccetera, eccetera. Capito? abbiamo avuto esperienza io alle punte, ne ho installato due nei camper e sempre quelle sono andate bene, le altre non c'era niente da fare, ne ho cambiato 4, 5 antenne, sempre problemi, 1, 5 o 2 di stazionari, andavi a parlare e non ti sentiva manco un cane, non dava nessun rendimento, capito? E quindi l'unica era la tubo 2001. Che mi sembra una serata la tubo 2001? Boh, non cambia qualcosa. Non so, se ce l'hai te la metti nel camper, sarà, non c'è problema per quello. Sarà, installi nel camper e vedrai come parli dal camper, che esci bene. Ti puoi mettere un bel lineare, un vicino 50 dentro per dire, e sopra, dove c'è vicino allo stereo, e vedrai che parli tranquillamente, non ti dà nessun problema. E poi ti, vabbè, quando ci aprirà la stagione adesso, estiva, adesso non si sa ancora nulla, ma ce la fai andare al mare con Plexiglas, per carità, un sacco di bar dice, ma questi sono scemi, hanno detto, stasera, dice, per aprire così rimaniamo chiusi, hanno risposto tutti, compresi anche i ristoranti. Adriano c'era, Marisa, Leone e poi c'era anche Daniele. Andiamo lì, cazzo. Cosa ho fatto, mi scemo? Mi sono messo la panzana unguento, si chiama. La crema con la vasellina, no? Per le macchie. E poi sono andato lì a metà mare. Per mezz'ora, un'ora, tutto a posto. Dopo due ore incomincia prima la Vespa. Poi la seconda. E cazzo, ho detto, questa cosa è strana. Poi ho cominciato a trovare. Mi sono alzato, mi muovevo io e le Vespe sempre attaccate a culo, era avanti. Allora cosa ho fatto? Ho detto, chissà che se ne vadino. Sono andato dentro senza il mare, mi sono bagnato, mi sono lavato tutto, eccetera, eccetera. Esco, sempre attaccata a me. A un certo punto ho detto a Daniele, mi Daniele, dove sono le cose? Ho detto, c'ho le Vespe, gliele vedi, ho detto, dove sono? Detto. Quindi la scena male, ho detto, me la ammazzia una a una. Prende l'asciugamano, cazzo, ne prende uno in pieno e gli si gira le altre due a lui, e l'hanno punto. Figurati, è come io sono andato tipo con la bistecca quando vengo la piccola dentro la pinetta, però è uguale, no? Sì, ma bella figura, cazzo, c'avevo, guarda, la Vespa a 15 cm da pisello, ho detto, se poco poco sbaglio, se mi pugge lì, cazzo, torno a casa, detto, mi si fa quell'attrezzo grande quanto un tubo di scarico dell'acqua, cazzo. Sì, davvero ci vuole la contenta? Sì, sarei rimasto minimo un mese, cazzo, con quella col ghiaccio lì. Con l'altronello, per assomigliarlo, parlo con faccio credi. Dico, non sto scherzando, mi Fabio. Tu prova a metterti la vasellina e poi vai a Pratamola per essere assiati dalle Vespe. Qua ti dico, non lo penso qualcuno che si mette qualcosa in spiaggia, pensa a Giovanni, ma l'ho combinato qualche anno fa. Se mi ha messo la crema per il coso, per il sole, tanti anni fa. No, se mi ha messo un'altra cosa sulla pelle, Giovanni. Quando? Io? Sì, tu, guarda, sono anche a posto, eh. E tu dove sei andato a fare la crema? A parte il fatto che c'è una radio che va bene, ho l'ultima cassetta che ci dice questa radio, non qua, qua. Questo non si sente nulla. La birra, Giovanni. Ah, è vero, la birra. No, me l'avevo buttata la birra, non credo. Io non c'ero, ma ne sei uscita con le foto, sono stata qui già. Questo non c'era, ma come c'era la birra, non sono stata fiammante. Era la signora, che stata una buona moglie, si vede anche il nome di un piede, mi ricordo, però poi, alla fine anche lì, cotta con una bracciola. Sì, c'è anche l'estate, c'è anche il lunghi. Sono i lunghi, però, la rottura con la birra. Questo è un po' di razza, era vero, perché come che è un po' di razza. Antonio, ti prego, vieni a casa, ti scegli mai, ti prendi, te lo riporti a casa e lo dai a Giovanna, va. Avvicinati a bocca al microfono, Giovanna. Io scoprendo quello con quel baracchino, tu ti metti... C'è il vizio lì di parlare basso basso, capito? Lo fa anche al telefono addirittura. Sì, ho la voce bassa, ma perché devo alzarla, urlare? Già urla abbastanza come quando canto. Quando urli abbastanza? Quando canto, io canto in casa. Ci devo mettere la cosa per recuperarti. Mi devi mettere? Qualche cosa per recuperarti quando canto. Oi. C'era, cazzo, c'era a fianco a quello che c'è solo adesso. Hai capito? Cazzo, che... Ma tu mi potevi mangiare, no. Ma c'è il pianto, antenna, come me. L'antenna che sta usando adesso è uguale identica all'altro che c'è, l'antenna lì, il baracchino sono uno a fianco all'altro, capito? Il tornado c'ha il microfono amplificato e quello dove c'è le cose, l'altro che c'ha più watt, capito? Ascolta, fa una cosa, passa l'FM che è meglio. Passate tutti e due l'FM, vedrai che non c'è problema per sentirla. Giovanni. Non avevo capito che stavi dicendo Giovanni di Giovanna. Mi pare che neanche Giovanni. Giovanni la palacchina. Vediamo che non farà, no? Col cavolo! Con no, portagliella! Ma che cosa? Devo parlare? Sì, ma me non è bello, così mi scelgo, però non riesco proprio. Ma sai che non devo fare più scelta perché il tipo non posso farlo niente. Dobbiamo uscire da te. È ferma. Ecco, sì. Prova, ma... Oh, fammelo. Ecco, io aspetta che mi vengo con Giovanna, vai Giovanna. Ah, finalmente ti sento, non sento questo cavo tu, ecco che attacca con la frase di prima, la frase di dopo, si capisce un corno. Dammi una mano, annunci qualcosa con me, non mi posso riascoltare adesso che sennò è un casino. Io provo a fare una riflessione, guarda un pochino se innesca. Guarda, tolto l'ecco, innesca. No. Tu o no? Non mi innesca, esci bene. Tu devi amplificarsi il coso, l'ecco, e lascia così. Così va bene, così c'è l'ecco o no? Così non dovrebbe averlo. No, non c'è l'ecco. No, così almeno ti sento, non sento l'ecco. Ta ta ta. E poi riusciva a rilanciare l'altra frase, come ti sento? Però forse c'è di famiglio. Esce senza fischi ed è timidità. Guarda un po' così. Meglio. Va bene, va. Oggi funziona così, domani funziona in maniera diversa. Domani come la gente inizia a innescare, poi smette, poi riprende, fino a quando ho sotto l'antenna qua. Allora, ricordate una cosa, in FM la frequenza è modulata e il fischi non ne avrai mai. Invece in AM la frequenza è in ampiezza, cioè la modulazione è in ampiezza, quindi se c'è un rientro di ogni frequenza, fischi per forza, capito? Invece in FM quello di, quel problema non te lo dà. Antone, ma se mi entra anche la giovane qua, addirittura, quando stavo facendo le prove dell'MS-100, mi sono messo un amplificatore BF qua, di uno stereo, acceso su Ficamic, no? E stavo cercando di capire quali saldature mi stavano dando per lì, per non rifarle tutte. E toccavo qui, toccavo là, ogni volta che toccavo un operazionale o nella parte di amplificazione, nella parte della controversione, puntuale si chiude la giovane. Eh beh, ce l'hai a fianco, già lo credo che lo senti, ce l'hai neanche a 100 metri, ce l'hai. No, veramente è 20 metri da me. Vabbè, io cosa ti ho detto, neanche a 100 metri ce l'hai, quindi sarà 20 metri, anche 50 metri per dire, figurati tu. E poi lì in quel palazzo ci abita coso anche quell'altro CB che modulava, che non mi ricordo il nome, che pare vende le scarpe, abita nello stesso palazzo di Radio Venere, anche Gianni Cipone ci abitava una volta, poi vabbè Gianni Cipone ha cambiato, adesso abita a coso, a Tizi. Io già non ricordo quello che ero lì, non lo ricordo solo io, no, se lo ricordo anche Giovanna. Tore, segno zodiacale sagittario. Per un periodo quando l'ho vista male, si può immaginare. Oh, primo amore. E allora, se c'ero io, cazzo, lì, quando mi stava sulle palle per questa cosa, mamma mia. No, il primo amore era Stefano, cazzo. Stefano Vettori, 3 anni appresso, poi, no, 3 anni appresso, poi mi cercava sempre lui. Sì, ma Stefano Vettori è la mia compagna di classe. Davvero? E allora, l'unica, anzi no, da due persone, a 4 persone ha fatto le mani, a lui le mani non gli ho alzate, però mi ricordo che un giorno aveva rotto le balle, era tipo all'ultimo banco, e quindi non c'era il professore di classe, c'era una mela sotto il banco, preso la mela, gli ho tirato, l'ho presa in testa, in pieno. No, poverino! Sì, povera cagacciata a scuola, che non faceva, si metteva sempre in mezzo lì a tirare, a mollare. scale, scale, capito? Cioè, puoi anche avvicinarti, chiacchierare, facciamo qualcosa insieme, due compiti, prendiamo qui con qualcuno, guardiamo dalla finestra. Invece lui arrivava, nanna, si stava fatto sull'ipico, cercava di allacciarsi la piede del carte da sotto, piano piano, si portava lo zaino su quello del vicino e viceversa, capito? Cercava di fare queste cose qua. Quando lo incontravamo ogni volta, lo chiamavamo l'uomo di Roma, perché tanto di quei colpi. Non possiamo tirarlo a terra per vedere quanto rimbalza, cioè se io con forza lo prendo e lo tiro a terra dall'altezza del banco, lui magari arriva all'altezza del lampadario, capito? Oh, ma pensa a te che due mesi fa mi ha mandato un messaggio. Sì, guarda, mi sa che non lo vedo dal 1986-87, qualcosa del genere. Mi ha mandato un messaggio, allora io gli ho mandato, ah no, delle Black Moon, non so che cosa, di cantare sui balconi, una cosa del genere. Io poi amico su Facebook non ce l'ho, quindi mi ha rintracciato lui. Ma che tipo, io me lo ricordo un po' troppo giocherellone, a livello che insomma, si prendeva le schiaffe di tanto. Mi faceva pure, mi sembrava un ragazzo, cioè è buono, è tranquillo. Però quando gli anni farlo stupido, allora diventa pesante, qualcuno non glielo perdona e sono schiaffi. No, ma tranquillo, io ho preso, gli ho risposto delle, gli ho mandato un messaggio delle mascherine, dove andare a trovarle, boh, ho più cercato, e lui l'ha cercato a me, anche perché non mi sembra il caso che mi cerchi, cioè, ma cazzo fai a cercare la tua ex ragazza di quando eri ragazzi, no? Ma vabbè, dipende da come, scusa, dipende dai pensieri che hai, cioè, si può anche avvicinare l'ex ragazza, non è mica un problema, dipende dalle intenzioni e da quello che c'hai in testa. Se la avvicini perché sei in un momento di magra e pensa di farlo di fiamma, insomma, non è una cosa proprio delicata. Ascolta, si è fatto sentire, e allora, quando Alessia aveva esattamente 3 anni, e poi, quando si è fatto più sentire? Poi adesso su Facebook si è fatto sentire, ma non mi interessa la questione, cioè preso e chiuso lì, pum pum pum, basta. So che è sposato, sono contenta, so che ha 2 figli, sono contenta, so che ha usili, sono contenta che si rimanga lì. Oh, pensa che c'è ancora la sua foto di quando la prima volta me l'aveva data. Ricordi, vecchi. Forte, quella me la fai vedere, eh? A vedere com'è. Quanti anni poteva avere al tempo? Allora, io avevo 13 anni e lui aveva appena compiuto di 17-18 anni. Scusa, se ne casse con me la mia coetanea, se ne avevi 13 e ne aveva 3 in più, 3 e mezzo. Ma guarda, con me non c'è uscito niente, con lui. Vabbè, capire che piccolina, ma ci potevo uscire. No, ho proprio voluto io, proprio per niente. L'uomo di Roma, così che ha preso quello. Poi non si scomponeva, tipo che prendeva schiaffi, si rialzava, no? Si rialzava tutto ciondolante, capito? Questo equilibrio, e se ne andava, e si girava e diceva, va fatta, sono girato il libro, quello che va a schiaffi, aspetta che vado a difenderlo. Non ho capito, fa. Prendeva così, no? Poi si rialzava, faceva 2 passi, si girava, e diceva, sono rimasto vivo, e poi su, se tutti qua non vogliono prendere ancora così, cioè non distruggono, aspetta che andiamo a difenderlo. Ma guarda che lui non si muoveva senza gli amici, cioè affrontare le persone, cioè le palle, proprio per niente. Andavo io ragazzi dai 13 anni insieme alla mia amica a affrontare le persone, lui no. Lui faceva parte di quelli un po' cagoni. Me da cagoni. Sì, la cosa che non c'è, mi hai aperto un mondo di ricordi, la seconda media, mamma mia. Non ho capito. Perché? Non mi senti bene. Ah, non so, Io ho messo anche le cuffiette fa. E com'è questa radio? Antonio, come c'è la radio? Sento questo, io con questo baracchino sento questo cavo di QRM. Se mi hanno detto altro magari mi senti? No, senta, ma con il torcello devo abbassare la radio. Io sono ancora in FM, cosa? Ma devo abbassare la radio un pochino. Abbassa la radio un pochino, magari. E abbasso anche il volume, perché insomma. Guarda se così va meglio, che siamo in FM, magari ha sparato. Nì, si sente un nì. Fischia? No, vabbè, sono un fischia, però io si sento. Se metti l'eco proprio non ci capisco a Fambrogio. Adesso lo. No, fai. Non ci capisci una fanculo. Cosa tu affanculo vuol dire? Hai capito quello che ho detto? Ah. Hai capito quello che hai detto? Dai che va bene così, secondo me, non lo so. Mi sa che sta con l'altra parata a vedere come sto uscendo, non si capisce nulla. No, posso avere il M600, usa l'altro di microfono, che vedrai che va molto meglio. Con l'altro devo cambiare di nuovo il caso, perché evidentemente questo che ho messo non è proprio a posto, perché si mette a fischiare a seconda di come lo muovo. Devo stare in bassamatto con la mano sul filo, tenerlo fermo, capito? Ah, capetto. Lì ci vuole microfono normale, ci vuole. Però quello originale Connex. Va a provarlo. Vedere se innasca di meno. Prima innascava di più con quello, Prova il microfono normale Connex allora. Attaccaglielo un attimino, vedi che ci metto. Allora lui attacca il microfono, mi attacco l'altro baracchino, a me questo suono di questo cavolo di palmare, Antonio, è bellissimo quello che vuoi, però io sono fissato al baracchino normale. Attacca l'altro, allora vai, stacca quello, attacca il tornado. Tanto devi solamente staccare l'antenna da 1, staccare l'alimentatore e basta, sei a posto. Poi il problema è che l'altro in FM è un casino, puoi modulare solamente in AM, perché vuole fatta la regolazione. E vabbè, se c'è l'AM che ci sia poco che QRM mi stava anche bene, a meno anche con le cuffiette riesco ad ascoltarvi, perché sento la ventola dell'Ambaradan che ci ho piazzato, che hai costruito tu, più questo attaccato alle orecchie, più la vostra voce, che io sono mezzo sorda. Allora facciamo così, in AM là direttamente attacca il tornado e così parli in AM con microfono amplificato. Qui c'è un nuovo quel disturbo del coso, cazzo, una cosa allucinante. Questo ripetitore, cazzo, qualche giorno mi piglio un bazooka e lo butto in terra, non lo butto, Ma ragazzi, c'è stata mezzanotte, non me ne ero accorto. Io devo tornare alla base ancora. Aspetta un attimino che sto smontando. Cazzo, 8 di QRM, tutto in un colpo, cazzo. In tutti i canali ce l'ho, cazzo. È una cosa allucinante, non l'ho mai avuto, guarda, QRM, la genere in vita mia, ma con qualcosa, cazzo. Questo cazzo di ripetitore 5G, guarda, mi sta girando le balle veramente, mi sta girando. E 5 girando proprio. E lo fa una mezz'oretta, un tre quarti d'ora neanche, poi smette. Non lo so, anche io ci sto delle cose strane in QRM. No, altro microfono non lo posso mettere, perché non ho messo le cose così adesso, non ci arrivo praticamente. Devo stare chinato sopra, Antonio. E la cosa per il microfono per fare l'adattatore per il capito, però domani passo a Fugaro. Volevo chiederti, ma ce ne avrai i PL femmina? Fa passi da M, che il giovane ha lanciato l'altro il baracchino. Ok, va. Ci siete? Sì, ci siamo. Fabio. Ma già non parla? Adesso lo sento, anche se sono a lui, ma lo sento meglio. Chi ha il fischio, sento io, se posso sentire il tuo QRM. Ma stai mercando, Antonio? Sì, stai mercando, adesso non ho capito perché. Va meglio? Sì, invece mette meglio, va. Anche per le mie orecchie, grazie. Adesso va bene. Io ho 7 in mezzo a QRM, la radio sembra pulita, però mi ribassa. Anche se va ribasso, però va meglio, a me ti piace. Evidentemente il punto di radio. Ma cosa non è, io non volevo fargli la modifica a questo tornado per uscire più forte di radio. Secondo me siamo in situazioni così e mettiamo una per quelle alici. Ciao, fagli la modifica del territorio dalle alici e vedrai che cambiamo le cose, te lo sto dicendo. Stacca direttamente il trimmer delle alici, lasci solo quello della MC e basta. Poi controlla la potenza, evidentemente avrà abbassato il trimmer quello là. No, la potenza ho visto che ho funzionato di belle alte, perciò dipende da quello, facendo basso sicuramente se la stazionale è tipo 2,5 roba del genere, infatti la parte scalda abbastanza. E poi ho visto che sta salendo anche un po' di corrente perché mi va un po' di ripollo all'alimentatore. L'hai visto che ti ha messo anche lo strumento all'alimentatore? E l'ho visto, beh, l'accordatore non lo puoi mettere se c'è la stazionale 2,5. Ha trovato l'accordatore, non l'ho più trovato, non lo so dove cavolo l'ho messo, ma ti dico di più, l'ogni lo prende due spigottini a pannello, due piele a pannello da fusaro, così almeno me lo faccio un accordatore serio, ma non come quelli da 20 euro a 100 euro, no, se me lo faccio io, tipo 60 spie, selezionatore a almeno 7-10 posizioni, doppio condensatore, scarico a P, faccio un accordatore come Dio comanda, cioè che magari scende anche sui 10 metri e arriva fino ai 100 metri. Oh, lo so, vedi tu, ma te lo costruisci l'accordatore, non costa niente. Va bene, avanti Giovanni. Buonasera signori. Sapete? Ma non aveva chiuso, me lo immaginavo, ma ci avevo scommesso. E cosa hai messo? Il bipi delle cose, come si chiama? Le brondica. Dai, ciao a tutti, ciao Giovanna, ciao Fabio. Questo è il 7009, Antone. Sembra che c'è il bipi dei brondi. Pensavo a lui, pensavo che rispondesse Giovanni, invece ti saluto io. Scusate la voce che se ne sta andando, ora già la voce, voce. La voce già va bene, non ti preoccupare. Allora, adesso ti posso rispondere, cos'è il messaggio di Giovanni? Fabio. Non l'ho sentita. Ehi, ha detto cosa avevi chiesto di Giovanni, che non ti aveva capito poco fa. Ah, a dargli baracchino a Giovanni, adesso viene cosa con noi, direttamente da lì, così almeno c'era anche lui, parlavamo pure con lui. Ma cosa volevamo anche chiesto, no? No, Antone, la perdo in mezzo a QR, è alta quanto il QRM adesso. Io ho detto anche la Giulia che avevo chiesto, che niente c'è, io avevo detto prima che non parlava niente. Sì, avete, in pratica mi ha detto che lei gliel'ha chiesto a Giovanni e vabbè, gli avevo chiesto anch'io, l'avevo detto, certo, se vuoi il baracchino, ho detto padre, tranquillamente con Giovanni, l'ho detto tutti i giorni e gli ha risposto che non gli interessava, capito? Ha detto, già si sentiva al telefono tutti i giorni, quindi non c'era nessun bisogno, oppure si vedono di persona. Mi. Io capisco, però è una cosa carina secondo me, vabbè, secondo me che ho il baracchino dalla vita eccetera, secondo lui magari è una cosa diversa, magari lui non gli piace. No, non c'è pazzesco, anche perché lui la chiesa è fuori lì a cercare una cosa di noi, la campagna è stata con la mamma. E purtroppo lo perdo, ma perdo nei dei fissi del QRM, chissà cosa appunta la mia antenna. Cazzo Marco, guarda che sono liscio, non sono attaccato. Hai visto il segnale? A questo Schmitter 9+35. Ma è FM, però? No, anche una M. Che una M? Quello che si chiama la Chiro, di russo, cazzo, Medina, 7009. Cazzo, ma tu c'hai dico vedere dove aprite un negozio qua sotto a casa. Ehi, Fabio, ma ho capito che hai difficoltà a copiare Giovanna, che già il QRM. Cappa, lui si dice QRM, è la base di segnale, tipo con l'altro apparato era Santiago 9, la radio magari 2 o 3, ma quando avvicinava la bocca al microfono riuscivo a capirla. Invece con questo 7 di segnale e come lei va importante lì si tira dietro tutto il QRM, perciò la sento mischiata a fischi, poi a volte sembra che inneschi, proprio zero. Siamo all'11. Io l'ascolto, sì, ma sai perché Fabio? Perché l'altro apparato è un apparecchio professionale e in FM credo che abbia un bel po' di watt, un mucchio di watt, non so se siano un centinaio oppure. Copiato Fabio? Sì, a te sì, però c'era qualcuno che sta facendo Giovanna. Ehi, vieni avanti Giovanni. Allora, adesso c'è il tornado, Marco, capisco. Se ci spostiamo sull'11, come la QRM? Proviamo, canale 11. K. Cioè, aspetta, prova un po' con Fabio, io ti copio, io ti ascolto. Fammi vedere il segnale, Giovanni. Uno e tre? 7.5, prima eri 9. Cioè, ho cambiato apparato, anche con le cuffie poi, se non riesci a sentire nessuno, se non riesci a sentire nessuno. Però la modulazione è più bella, lo sai, l'altro, oddio, vabbè, Fabio la copi? Adesso è più comprensibile, mi sei tanto di meno, 8 che è una mezzanotte, anche se comunque, vabbè, la verità mi devo portare io l'antenna, poverina, lì non c'entra niente, e poi fa fare il fratello con questi apparati, mamma mia. Sempre con me, io faccio di tutto per farla sentire, sempre come ce la faccio. Comunque Giovanni, dovresti metterti leggermente più distante dal baracchino adesso, perché sennò tende a fischiare. Ma con chi cavolo? Adesso voi sta facendo bene, è ora. Con chi cavolo state parlando? A me io, però che cosa, è entrato Franco, tu sei? Sì, con chi state parlando? Allora, c'è Antonello con l'antenna, vabbè, sul tetto, poi c'è Fabio con un'antenna messa bassa e poi c'è la sorella di Antonello, Giovanna, sempre con l'antennino. Antenna veicolare messa però dentro casa sul balcone, cap. Cap, no, ascolto, neanche uno ne ascolto. Ma purtroppo sono, cioè, antenne quasi proprio aderenti, non adiacenti, aderenti al palazzo, capito? Per quello è. Dice che posso chiedere il reddito di cittadinanza a comprarlo. Ehi, ok, dai, riprendete voi. Cappa, io ritorno. Che riprendete? Io perciò sono obbligato a fare i quadretti, stanotte non potrò neanche ascoltarti, ma la domani notte potrò anche ascoltarti, che è già qualcosa. E allora vi saluto e niente, tante grazie di tutto, tutto molto bello, e bello stare in frequenza comunque, mi ricordo anche che tempi ha tutto il suo fascino, complimenti per la ruota. Ok Fabio, sei quello, ci sentiamo domani, così ti sistemi bene l'antenna, te la metti come si deve, eccetera, eccetera. Franco, io ti ascolto bene. Anche con il di cittadinanza Giovanna non poteva manco cancellare l'antenna sul palazzo del mio palazzo perché è un casino. Dovrei passare il 2058 da casa mia, scendere nel piano delle scale, al piano delle scale passare poi in pratica il campo satellitare, eliminarlo del tutto, dato le parabole non ne usa, passarci il 2058, che è molto difficile che ci passa in un tubo da 16 insieme al campo TV, capito? Rimarrebbe incastrato. Tutti e due casi non è che siano, a meno che non c'è una guaina molto grossa, se no non ce la fa a passare, come fa? Sì, Giovanni lo sapevo che usciva a basso, io non riesco mai, non ci riesco a ascoltarlo, ma che ce n'era un altro non lo sapevo. Infatti gli ho detto a Marco, guarda che c'è il diritto di cittadinanza, che danno adesso, si può comprare l'antenna. Allora, una volta Fabio Massa, adesso ormai ha detto che cambia posizione l'antenna e la mette nell'altra parte del terrazzino, quindi dove si potranno sentire. C'è la Turbo 2001, quindi figurati tu, è aperto per la zona tua, da quella parte lì, capito? E capo. Fabio Master. Ma Fabio Master di una volta? Esatto, sì. Ehi, cavolo, gli hai quattro venneri. È rientrato, Quindi figurati, Fabio Master degli anni che furono, quindi figurati. C'avevo la manta con allora, soprattutto. Adesso a casa della madre, provvisorio, quindi è con la tana, la tubo 2001 canciata a metà dal filo. Cioè, adesso è nella finestra, come ci vedo messa giù quella stasera. Per domani c'è che c'è un sistema della ringhiera, quindi dovrebbe essere aperto per la lavatura, perché da quella parte c'è tutta via due sole, capito? Quindi a casa tua arriva per forza. Gli hai quattro meno, mi sembra che 25-30 anni che non ci sentiamo. Esatto, sì, infatti. Capito cos'è il problema? Ho usato facile facile qui, cioè, fosse stato il palazzo non a scalini come questo qui che è mio, cioè mio, dove abito io, sarebbe stato facile scendere direttamente un cavolo direttamente a casa di Giovanna, invece viene ben male, capito? Lo vedi in facciata e immediatamente girano le palle, quindi l'unica cosa che potrei fare è tutto un giro strano, capito? Ci vuole almeno 80 metri di cavo di 58, ma dovrei prima di tutto è più di 15 anni che c'è il cavo TV vecchio, e quindi è un casino a toglierlo. Se fosse uscito il cavo vecchio quando l'antenna TV, avrei messo quello satellitare e avrei sceso entrambi i cavi assieme, capito? E avrebbe pensato il baracchino in salone, avrei messo l'antenna sopra il tetto dalla parte mia dove sono io, dalla parte della massata. Dalla cucina per esattezza, perché avrei fatto un basamento di lì e avrei messo la magliettica sopra, sarebbe arrivata tranquillamente Giovanna a casa tua, oppure una mini lampreina, andrebbe bene lo stesso. Sì, ma un'antenna sul tetto dove c'hai l'antenna tu, sarebbe arrivata tranquillamente, non dico di arrivare molto forte, però diciamo che almeno l'avrei ascoltato. Cosa ti volevo dire? Sì, perché non cambi il cavo allora e ci metti quello satellitare che è più sottile e in più ci infili anche quello? Perché prima devo togliere tutti e due, capito? A un certo punto. Eliminare tutti e due, già è passato per sbaglio il cavo satellitare, quindi ci devo mettere un bel po' di coso di dentro al tubo del 16. Di detersivo quello per i piatti. Ma quale? Ci metti un po' di vasellina, ci metti al cavo che devi infilare, ci metti un po' di vasellina, tiri e vedrai che andiamo a mettere il greggio. Ma devo togliere dietro i due cavi, capito? Perché c'è dentro al tubo qua adesso c'è il cavo satellitare del condominio e in più c'è il cavo TV, quello grosso, hai capito? Quindi in pratica lo devo eliminare sia il satellitare sia il cavo grosso della TV e agganciarci quello fino, hai capito? Nuovo. E quindi fino a piano sotto casa mia. Ah, capo, sì, ho capito. Adesso ho capito. Basta farlo, vedrai che qui non avrai più problemi. Gli metti un'antenna al fianco della tua, una boomerang, perché da dove sei tu? Sembra così, ma già esce bene. Avanti, Marco. Volevo chiedere, Antonè, voi avete il balcone, il terrazzino in muratura, vero? Non è metallo, la ringhiera? No, è muratura. Invece dalla parte del salone è in alluminio, hai capito? Solo che se io metto l'antenna dalla parte del terrazzino via vado a basso, Giovanna c'ha l'altra parte coperta, capito? C'ha solamente la parte di seno e la parte di osio aperta, perché il palazzo di 6 ci mette al matto, quindi non è che uscirebbe così tanto. simpatica la terra sarebbe sopra, per essere giusti, giusti, giusti. E ci vorrebbe un palo al limite, piazzato giù, 12 metri di palo fino ad arrivare quasi al petto. E non me lo cominciare a volare a fare una cosa del genere, ma sto scherzando, a parte per l'estetica. La prima cosa, i guai. E non posso neanche passare il cavo esterno, perché se lo passo come lo facevo una volta io, il cavo esterno, a meno che so che si vede lo stesso, dovrei tingere l'LVG di 58 di colore marrone, hai capito? Ed è un casino, cazzo. Non fa. Una volta il cavo passava dentro al tubo dello scarico dell'acqua, poi un giorno si era intasato lo scarico dell'acqua perché un imbecille aveva buttato tutte le foglie di casa sua, delle piante. Ha preso, hanno fatto finta di nulla e mi hanno tagliato le 216, tutti e due i cavi. Quella brava, capito? Ah, ho capito, no, scusa Antone, credevo che Giovanna avesse tipo la camera verso Sassari, invece avendola sempre via Guardabasso, e già lo credo, Franco, che non ti arriva, praticamente anche avendo una boomerang schermata per tutta Sassari, perché loro sono molto in alto, praticamente il palazzo stesso a loro gli copre tutta Sassari, è un peccato. Ok, ma Giovanna c'è ancora o ha chiuso? Purtroppo è seccante, a meno che non mettete una seconda verticale, eh? Antonè, così si suicida l'amministratore del palazzo. Ma dai, la cosa buona sarebbe stata. Vai Fabio. E Fabio ha chiuso. Guarda, se avessi avuto l'appartamento di via Carlo Felice, per dire, e la mansarda in via Carlo Felice, sarei stato bello tranquillo, perché da lì sarebbe stato fenomenale. E l'avrei messa da una parte, dall'altra, Giovanna sarebbe uscito lo stesso. Invece dalla parte di via Guardabasso, cioè tutto il palazzo c'è metà armato, hai capito? Quindi se la metto nel terrazzino, non è che ci abbia tutto questo guadagno, c'è un sasso di tappata, capito? Ci sono una zona di Ossi che sono di fronte, Osilo e Senoli, e Sosa, basta. Però non è che sei tanto chiuso qua, da dove sei tu, sei in alto, sì, che il punto che tu sei non è brutto, però che certo se ci metti un'antenna nel terrazzino è ovvio che non esce, ma mettendola dove c'è la tua verticale va bene. Facendo così sì, pienamente d'accordo. Dovrei far entrare il cavo sopra la mansarda, dentro la mansarda, da lì e infilarci il cavo da qui, dove entra il cavo TV, farlo scendere giù alla prima scatola che c'è nel piano di sotto, e da lì in pratica devo eliminare il cavo satellitare che scende dal condominio da Giovanna, hai capito? Il discorso è quello lì. E faccio scendere pure direttamente, perché la calata va direttamente in casa sua, in salone. In pratica tu sei sopra lì? Lì al primo piano, io sono al terzo di alzato, già te lo ricordi. Sì, tu al terzo. Lei è al primo. Il capo, devi superare un altro appartamento. Quello è il problema, che devo fare, ci vuole almeno, non mi bastano 50 metri di rigido, 58, quello è il discorso, ho capito. Devo eliminare per forza un cavo. Siccome potrei, è un casino, è un casino fare così. Se era stato facile, cioè se Giovanna abitava nel piano sotto casa mia, per dire, non avrei fatto altro che mandargli il cavo direttamente in casa sua e basta. Direttamente dalla facciata, capito? Lei è in pratica sotto al bar? Più avanti dal bar. È sopra cosa? Alla paletteria. Leggermente spostata. Vabbè. Qual è che... Io dalla mansarda arrivare all'angolo dove c'è lei ci vogliono 20 metri di cavo in orizzontale, dopodiché devo scendere dalla parte opposta fuori, siccome c'è l'installazione di un altro, quindi a un certo automaticamente quello cosa fa? Prende e mi taglia il cavo con la forbice, che è manco io usare. Qui purtroppo ci sono i seminati, l'ha capito. Se lo sarebbe stato facilissimo a fare un lavoro del genere, l'avevi già studiato da prima. Guarda, vabbè, mi viene tagliato a me, tu hai più tagliato che corri. Non so, siccome hai capito tutto il condominio, c'erano con me, capito, quando ti sono di malacchia, appena sono io sono entrato qua.